forte stasera a suonare. Sotto un soppalco a fumare. Quello che va bene per te, sai che va bene per me. Averti so quanto vale. Piuttosto che stare così, la sera di un mercoledì. Se penso che prima eri qui, ti davo un bacio di più piuttosto che darti un CD. E ti amo pure se non so dove andiamo. Mi sa dimostrarlo, non sono bravo. Anche se è un po' che ci conosciamo. Ti amo. Squilla vuoto per 10 minuti che so quanto ami la solitudine. Anche più di me so che sembrano frasi stupide. Prova a non pensarci ma è inutile. È inutile. È inutile. È inutile. Prova a non pensarci ma è inutile. È inutile. È inutile. È inutile. Prova a non pensarci ma è inutile. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Tutte le luci di là. Tutte le luci di là. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare. Se vuoi fumare mi fa tutte le luci di là, tutte le luci di là. E allora scrivo questa qua, perché sei in un'altra città. Non posso arrivare fin là, domani è da fare mi sa. Quindi ne giro un'altra anche se puoi fumare mi fa. Stare più male perché non penso con lucidità. Già mi vedo che spengo tutte le luci di là. E faccio finta di morire che non mi va di fare finta di sorridere. Fare le scaperle vivere. Dicono che questo è vivere. Mi spiace ma non è così per me. Che darmi tutto non è facile. Giù al 19 le emozioni fradice. Che c'ho il cuore fragile. Ma tu mi colori le pagine. E va bene così. È inutile. È inutile. È inutile. Prova a non pensarci ma è inutile. È inutile. È inutile. È inutile. Prova a non pensarci ma è inutile. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Tutte le luci di là. Tutte le luci di là. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare. Quindi ne giro un'altra che se puoi fumare mi fa. Tutte le luci di là. Tutte le luci di là. Tutte le luci di là. Tutte le luci di là.